non confidare nelle tue ricchezze e non dire «sono autosufficiente». Non fidarti di te stesso e della tua forza per seguire i desideri del tuo cuore. Non dire «chi può comandarmi?», perché il Signore ti punirà. Non dire «ho peccato e cosa è successo?», perché il Signore ha sempre tempo. Visto che perdona, non essere sfacciato da aggiungere peccato a peccato. Non dire «la sua compassione è grande, perdonerà i miei peccati, anche se molti», perché in lui c'è misericordia ed ira. Il suo furore scenderà sui peccatori. Non ritardare la conversione al Signore e non differirla di giorno in giorno, perché l'ira del Signore verrà improvvisa e nel tempo del giudizio sarai distrutto. Non confidare nelle ricchezze ingiuste, non ti serviranno nel giorno della sventura. Non spulare ad ogni vento e non andare per ogni sentiero, come fa il peccatore e il simulatore. Sii costante in quello che pensi e sia una sola la tua parola. Sii pronto nell'ascolto e lento nella risposta. Se sai, rispondi al tuo prossimo. Se no, la mano sia sulla tua bocca. Gloria e disonore nel modo di parlare. L'uomo cade per la sua lingua. Non farti la fama di maldicente e non insidiare con la tua lingua, perché se c'è vergogna per il ladro, c'è amara condanna per il simulatore. Non sbagliare nelle cose grandi e nelle piccole, per non mutarti da amico in nemico.